Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, Radio 24 si è occupata del problema degli insegnanti prepensionati per i quali qualcuno ha parlato di rottamazione. La ringrazio a nome del gruppo, peraltro non foltissimo, dei docenti nella mia condizione, dato che il problema, di principio e di sostanza, sembra non interessare nessuno, a parte noi, i nostri studenti, le loro famiglie. Evidentemente a qualcuno interessa discutere della qualità dell'insegnamento, che prescinde dall'età. Conosco giovani insegnanti vecchi dentro e vecchi insegnanti giovani dentro, capaci di dialogare con gli studenti, di mettersi in discussione insieme a loro, di aiutarli a costruirsi una mentalità critica e aperta, insomma, di crescere. La questione si risolve spesso in un muro contro muro, vecchi contro giovani, che non può portare da nessuna parte. I veri problemi della scuola rimangono in gran parte fuori. La ricaduta della riforma Gelmini in merito all'offerta formativa proposta dalle scuole, i sistemi di reclutamento degli insegnanti, la loro formazione permanente, eccetera, a mio avviso, i punti sensibili di una scuola al passo con i tempi. Ma tralasciando tutte queste complesse problematiche, io vorrei porle alcune semplici domande. Troppo semplici, forse, perché trovino una risposta. E infatti, non ne ho ricevuta alcuna, benché mi sia rivolta a uomini politici, sindacati e perfino al presidente Napolitano. Le domande si possono condensare così. Qui prodest. A chi serve che se ne vadano 1000 insegnanti preparati, esperti e motivati? Non certo ad aprire opportunità ai precari. In compenso, le casse dell'INDAP, cioè noi con i nostri figli ed ex studenti precari, quanto saranno penalizzate dal peso di questi pensionati coatti, cui si dovrà corrispondere pensione e TFR? Ma non dovevano essere premiati quanti decidevano di rimanere a lavorare oltre il limite garantito? Uno Stato liberale può intervenire così pesantemente nei progetti di vita di una persona, nel dispregio di uno Stato di diritto che garantisce l'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge anche in merito all'età? Le sarei molto grata se volesse rispondermi, perché se capisco che è giusto che noi ce ne andiamo, che farà bene allo Stato, allora me ne andrò a coltivare il mio giardino con meno rimpianti. Lucia, provincia di Livorno. Gentile Lucia, il problema che lei pone è particolarmente importante, al di là del caso specifico. La domanda è se sia giusto, pur in un momento di difficoltà e di necessità di tagli alle spese, che vengano obbligati alla pensione persone ancora professionalmente valide e in grado di dare un contributo positivo e ricco di esperienza. Certe scelte non contraddicono l'esigenza di alzare l'età pensionabile e di non aggravare i conti degli enti previdenziali? Il problema indubbiamente esiste ed è soprattutto vero che le persone non sono numeri e che le sostituzioni non possono essere mai a costo professionale nullo. La regola di fondo dovrebbe essere quella di valorizzare al massimo tutte le professionalità, ma ogni regola ha giustamente le sue eccezioni per aziende in difficoltà o per settori della spesa pubblica che necessitano di ristrutturazioni. E il metodo del pensionamento, talvolta anticipato, è quello che ha minori impatti sociali, perché comunque garantisce un reddito e quindi una sicurezza economica. Lo ripeto, è un metodo che deve essere considerato un'eccezione, una misura straordinaria per superare un momento di crisi e di difficoltà. Nel caso della scuola, il problema è indubbiamente più complesso. La scuola non è un'azienda, ma anche lo Stato, nel suo insieme, deve far quadrare i conti. Ma non posso che concordare sul fatto che i risparmi di spesa dovrebbero riguardare tante altre realtà, compresi il numero e gli stipendi dei parlamentari o l'abolizione delle province, prima di toccare un settore vitale come l'istruzione. Egregio direttore, si ritorna a parlare di riforme. Il tempo che ci separa dal 2013 è breve. Riproporre quanto fatto dal Parlamento nel 2001-2006 sarebbe sbagliato, in quanto portò ad una riforma brutta e pasticciata, votata a maggioranza semplice, con bocciatura finale al referendum costituzionale del giugno 2006, con un 62% di no. Sarebbe auspicabile verificare un percorso teso a questi obiettivi: riduzione dei deputati da 630 a 400, riduzione dei senatori da 315 a 200. Si dovrebbe inoltre stabilire che possono votare sia per la Camera che per il Senato gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età, abolendo così l'anomalia dei 25 anni per eleggere i senatori. Le leggi dovrebbero essere votate sempre da Camera e Senato, come avviene negli Stati Uniti, dove la riforma sanitaria proposta dal presidente Obama già in campagna elettorale è stata votata a maggioranza da Camera e Senato e di nuovo dalla Camera per le modifiche apportate dal Senato. Anche i regolamenti dovrebbero essere simili a quelli degli Stati Uniti, abolendo il voto di fiducia per l'approvazione delle leggi. Alla fine di questa legislatura si dovrebbe modificare la legge elettorale, ripristinando la scelta dei rappresentanti attraverso collegi uninominali o con le liste aperte. E infine, bisognerebbe rivedere la legge Tremaglia. È chiedere troppo? Lettera firmata. Cara Radio 24, a quanto pare gruppi di integralisti cattolici sarebbero contrari alla vendita e quindi all'uso del profilattico. Ora, tutte le opinioni sono rispettabili, ma secondo me il radicalismo moralistico si pone al di fuori della realtà del mondo d'oggi. Ad esempio, se un marito affetto da virus HIV si attenesse ai precetti dei succitati personaggi, diventerebbe chiaramente strumento diretto di contagio verso la propria moglie sana. Ma è giusto? Non sarebbe forse opportuna una precisazione ufficiale da parte dei vertici vaticani sulla questione? Lettera firmata. Certo, non è bello dover discutere su come non far nascere un bambino. Questa nuova pillola ha uno scopo preciso? E serve forse a far soffrire di meno? E chi? No, non credo. Ma il suo utilizzo potrebbe essere troppo disinvolto, senza un controllo adeguato, ed è questo che mi fa paura. Non si tratta di essere o meno a favore dell'aborto, perché da decenni ormai è permesso e praticato in Italia, ma renderlo più facilmente accessibile e meno ingombrante come problema, forse anche meno costoso. Non sono mai stata una femminista, ma sono convinta che gli uomini saranno grandi sostenitori di questo prodotto, perché quale partner non apprezzerebbe una facile soluzione a bebè indesiderati e troverebbe fantastico che ogni donna avesse in borsetta, accanto alla pillola per il mal di testa, quella per il mal di papà. Però la semplificazione di un gesto così importante ne elimina forse la giusta valutazione e vedo il rischio di confondere questa pillola con un semplice lassativo. Poi basta tirare lo sciacquone ed il problema è risolto. Mi sembra veramente troppo triste. Come donna, non lo accetto. Giulia. Quante inesattezze, pregiudizi, preconcetti ideologici dietro questa visione del federalismo fiscale. Il federalismo fiscale è già una realtà in questo paese, in regioni come la Sicilia, per esempio, che dispongono quindi di maggiore autonomia rispetto alle altre regioni. Si tratta solo di riequilibrare una sperequazione oggi in atto fra la gestione di regioni cosiddette a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale. Non è affatto vero che vi sarà una maggiore imposizione e un relativo aumento della pressione fiscale, poiché per le stesse competenze allargate in senso autonomista, i contributi erariali attualmente destinati allo Stato centrale, che vengono successivamente ridistribuiti alle regioni, passano semplicemente di mano, dallo Stato alle regioni, appunto. È prevedibile invece un buon risultato di riduzione del prelievo fiscale, in quanto allo stato attuale, con i perversi meccanismi di prelievo e di redistribuzione attualmente in uso, si disperde una buona parte di questa tassazione, svanita in questo andirivieni dei denari pagati in tasse e destinati all'erogazione di servizi essenziali ai cittadini. Il cittadino contribuente avrà maggiormente vicino a sé il soggetto che preleva le tasse ed eroga i servizi, potendo esercitare nei suoi confronti un maggiore controllo della spesa come del prelievo ed ottenere così una maggiore forza contrattuale nella destinazione di tali danari, anche nel senso della scelta dei servizi, della loro quantità e qualità, come del loro cattivo uso o abuso. In quest'ottica è chiaro che tutti ci guadagneranno. Verrà inoltre inserito nel sistema dell'erogazione dei servizi e della gestione del controllo del denaro come della spesa pubblica una competizione positiva, un'inusitata concorrenza fra le regioni al virtuosismo gestionale, migliorando l'efficienza delle macchine burocratiche e del governo delle genti e dei territori. Questo sistema aumenterà la diretta partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, rompendo quel difetto di partecipazione che spesso e volentieri viene chiamato in causa per identificare lo strano rapporto Stato-cittadino, entro cui il cittadino paga le tasse e poi si disinteressa assolutamente di come i danari prelevati fiscalmente vengano utilizzati. Attualmente, nel regime di spesa e della fiscalità, come nel governo delle finanze pubbliche in generale, il governo emana provvedimenti esecutivi unici, che possono avere invece impatti multipli e profondamente differenti, proprio in virtù delle notevoli differenze che insistono nei territori e fra i territori italiani. Quello stesso provvedimento governativo, teso alla gestione delle finanze e della spesa pubblica, attualmente può avere un effetto in Veneto, un effetto diverso nel Lazio e addirittura l'effetto opposto in Sicilia. Com'è possibile non comprendere queste semplici verità? Lettera firmata. Leggo che qualcuno nel PD ora dice che il PD non ha idee. Perché lo dice ora e non l'ha detto il venerdì prima delle elezioni? Ma di che cosa parlano e dove vivono? Io vorrei che mi parlassero dell'Italia e di come vanno le cose nel nostro paese. Sono 15 anni che in Italia l'economia non cresce più. Il nostro è un paese in declino. L'anno scorso il prodotto interno lordo ha avuto un calo del 5%. Non abbiamo più la possibilità di investire in ricerca, non produciamo tecnologia, siamo agli ultimi posti negli investimenti per le energie alternative. Nel nord, già nell'Ottocento, c'erano le ferriere e le industrie tessili. Al sud ci sono 4 grandissime industrie senza macchine e utensili, senza telai, senza ricerca, ma con una grande organizzazione che fattura 135 miliardi all'anno. Se quelli del PD hanno del fiato da spendere, mi parlino di quanto sopra. Lettera firmata. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.